GR Europa. Buon pomeriggio anche da Anna Migliorati, vacanze ormai alle porte, allora oggi con GR Europa ci occupiamo della rivoluzione che potrebbe attenderci presto in aeroporto, almeno negli aeroporti europei, con Laura Bettini. Se le code per i controlli di sicurezza negli aeroporti oggi vi paiono già lunghe e lente, sappiate che le cose non sono destinate a migliorare. La Commissione europea stima infatti che nel 2030 dai valichi di frontiera aeroportuali europei passeranno 720 milioni di persone contro i 400 milioni del 2009. Quindi o si fa qualcosa o la settimana enigmistica non basterà per sopportare le attese. Nel febbraio scorso la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure chiamato Smart Borders, confini intelligenti, che propone un programma, detto RTP, per viaggiatori di paesi terzi che viaggiano di frequente nell'Unione e un sistema, chiamato EES, per registrare ingressi e uscite dalla UE. Lorenzo Fontana, Lega Nord, è uno dei membri della Commissione Libertà e Giustizia del Parlamento che andrà a verificare il pacchetto proposto dalla Commissione. Grazie proprio a questi flussi, diciamo in parte turistici o in parte lavorativi, l'Europa guadagna circa 270 miliardi di euro. Il fatto di voler aiutare queste persone a non avere grosse file alle frontiere e facilitarli non è sicuramente una cosa sbagliata. L'altra parte di questa proposta da parte della Commissione è quella di fare in modo che ci sia una, diciamo tra virgolette, schedatura tecnologica di quelle persone che entrano in Europa e magari dicono di rimanere per qualche mese, invece rimangono per più tempo, eccetera, in modo di sapere esattamente le persone che sono all'interno dei confini europei in determinati momenti usando proprio la tecnologia. Ma la realizzazione di queste misure di sicurezza passa per la registrazione di milioni di dati personali. E solo pochi giorni fa è esploso lo scandalo Datagate negli Stati Uniti, su cui il commissario europeo Tonio Borg si è espresso così alla plenaria del Parlamento europeo. La Commissione, dice, è preoccupata per le informazioni che riceve dalla stampa sulla raccolta e l'analisi di informazioni personali di cittadini europei da parte delle autorità statunitensi. Preoccupazioni che sul tema dei controlli aeroportuali Lorenzo Fontana esprime chiaramente. C'è questo scontro, c'è un'esigenza di sicurezza sempre maggiore, ma purtroppo questa esigenza di sicurezza potrebbe in certo qual modo farsi diventare degli schiavi e quindi bisogna stare molto attenti a avere delle leggi che garantiscano la privacy, che forse adesso non sono adeguate rispetto al livello di controllo che può e potrebbe esserci. Anche se io ritengo che comunque cercare di frenare l'illegalità che purtroppo crea delle tensioni sociali e magari a volte crea anche delinquenza e criminalità, quindi è giusto sicuramente controllare, dall'altra parte bisogna stare attenti che non si vada a vivere in Matrix. Ecco. I Verdi tedeschi, rappresentati a Bruxelles dai giovani e combattivi parlamentari Franziska Keller e Jan Philipp Albrecht, si battono da tempo contro la fortezza digitale che dicono si vuole erigere sui confini europei. La protezione dei dati, dice Albrecht in Parlamento, non è un problema squisitamente tecnico. Qui si tratta di democrazia e giurisprudenza, che non significano sorveglianza di massa dei cittadini. Il programma RTP, sostengono, sarà una sorta di schedatura dei viaggiatori extraeuropei che forniranno le credenziali richieste, ma al contrario renderà automaticamente sospetto chi non le fornirà, la padella o la brace. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per oggi, l'Europa vi aspetta domani e come sempre sul nostro sito www.radio24.it. GR Europa è sostenuto dal Parlamento europeo. Info su radio24.it.